Volare, cantare, sognare, nel cielo lassù, dipinto di blu. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, volare, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cantare, cantare, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, volare, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cantare, cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Dipinti di blu.